Il segreto di Domino's Pizza, efficienza al servizio del gusto. Domino's Pizza non è solo sinonimo di una delle catene di pizzerie più grandi al mondo, ma anche di una straordinaria eccellenza nella gestione del tempo e della logistica. Come riesce a consegnare una pizza calda appena sfornata in meno di 30 minuti, mantenendo standard di qualità elevati? La risposta è una perfetta combinazione di tecnologia avanzata, organizzazione e una filosofia orientata alla velocità senza compromessi. La sfida. Servire pizza fresca ovunque e in fretta. Il settore della consegna di cibo a domicilio è spietato. Il cliente vuole cibo fresco, gustoso e veloce. Domino's affronta ogni giorno la sfida di preparare e consegnare pizze calde, spesso in meno di 20 minuti, a milioni di clienti sparsi in tutto il mondo. Ma com'è possibile ottenere una tale rapidità, soprattutto durante i picchi di domanda? La soluzione è tecnologia e ottimizzazione in ogni dettaglio. Domino's si distingue per l'approccio altamente tecnologico al servizio. Ogni fase del processo, dalla preparazione alla consegna, è ottimizzata per ridurre al minimo i tempi morti. 1. Piattaforma digitale avanzata. La maggior parte degli ordini arriva tramite l'app o il sito web, che invia direttamente la richiesta alla cucina. Questo elimina ritardi nella comunicazione e consente di pianificare la preparazione in tempo reale. 2. Sistema di cucina modulare. Le cucine di Domino's sono organizzate come una catena di montaggio. Ogni stazione è dedicata a una fase specifica. Dalla stesura dell'impasto alla farcitura fino alla cottura, tutto è pensato per massimizzare la velocità. 3. Forni a nastro automatizzati. Uno dei segreti è l'utilizzo di forni che cuociono le pizze in tempi record, senza comprometterne la qualità. Il nastro trasportatore garantisce una cottura uniforme e precisa, eliminando il rischio di errori. 4. Tecnologia GPS per le consegne. Domino's utilizza un sistema di tracciamento che permette ai clienti di seguire il proprio ordine in tempo reale. Allo stesso tempo, gli autisti ricevono percorsi ottimizzati per garantire consegne più rapide. Il ruolo del team. Sincronizzazione perfetta. Se la tecnologia è il motore, i dipendenti sono il cuore pulsante del sistema. Ogni membro del team è formato per lavorare in modo sincronizzato, garantendo una transizione fluida tra le varie fasi. Ad esempio, mentre una pizza è nel forno, gli operatori preparano già gli ordini successivi, riducendo i tempi di attesa. Un caso concreto, la sfida del Super Bowl. Uno degli esempi più impressionanti dell'efficienza di Domino's si verifica ogni anno durante il Super Bowl, uno degli eventi con il maggior numero di ordini di pizza negli Stati Uniti. Nel 2023, Domino's ha gestito oltre 2 milioni di ordini in una sola serata, senza ritardi significativi. Questo è possibile grazie a un mix di pre-pianificazione, scorte ben calcolate e un software che regola automaticamente i tempi di produzione e consegne in base al volume degli ordini. Risultati, tempi record e clienti soddisfatti. Grazie a questo sistema, Domino's garantisce un tempo medio di preparazione e consegna inferiore ai 25 minuti. Non solo, la combinazione di tecnologia e formazione permette di mantenere elevati standard di qualità, un elemento cruciale in un settore dove il sapore è fondamentale. Lezione per tutti: rapidità senza perdere qualità. Domino's non è solo una storia di successo nel settore alimentare, ma un modello di efficienza replicabile in molti ambiti. Dalla logistica alla gestione delle risorse, la chiave è ottimizzare ogni fase del processo, mantenendo sempre il cliente al centro. E tu? Hai mai riflettuto su come migliorare i tempi e la qualità dei tuoi processi aziendali? Condividi le tue esperienze nei commenti.